Buongiorno a tutte e tutti e bentornati a 42 La Risposta. In studio oggi con voi Maria e Oliviero. Ciao a tutte, ciao a tutti, ciao Oliviero. Allora, questa primavera prematura, queste giornate di sole, un nuovo album che esce in questi giorni e un concerto che si terrà stasera ci hanno suggerito l'argomento, anzi il racconto della puntata di oggi. Sì, queste bellissime giornate ci hanno proiettato un po' più avanti, in una stagione calda, i bagni, il mare o la piscina. Come le fai correre queste stagioni, Oliviero? Sì, ed è quello che fa anche l'autore del racconto di cui oggi vi parleremo, ovvero Il nuotatore di John Cheever. È una piscina, anzi tante piscine, fanno da sfondo a tutto il racconto. Veramente bellissimo. Se non lo avete ancora fatto, vi consigliamo davvero di leggerlo. Ma vogliamo dire qualcosa dell'autore prima? Cosa dire, Oliviero? Cheever è uno dei giganti della letteratura americana, forse qui in Italia meno famoso di alcuni suoi contemporanei come Carver, di cui oltretutto fu grande amico, ma altrettanto importante. Eh sì, ricordiamo che Cheever ha vinto moltissimi premi, tra i quali il premio Pulitzer e nel 1982 la National Medal for Literature. E la sua raccolta di racconti, The Stories of John Cheever, è stata una delle raccolte di maggior successo mai pubblicate da uno scrittore americano. Pensa che è rimasto nella lista dei bestsellers del New York Times per ben 6 mesi. Il New York Times stesso lo ha accostato a Chekhov. Cheever ha in comune con Chekhov l'eleganza, il calore, lo humor, un occhio infallibile per le assurdità del mondo e i difetti e le debolezze del genere umano. E Cheever, che non conosceva Chekhov, finalmente, dopo aver letto queste parole del New York Times, lo legge. E tra i racconti di maggior successo di Cheever c'è proprio Il nuotatore, da cui, lo ricordiamo, è stato tratto anche un film, The Swimmer, uscito in Italia con il titolo di Un uomo nudo, per la regia di Frank Perry, con uno statuario Burt Lancaster nei panni del protagonista Ned Merrill. Lo stesso Cheever fa un breve cameo all'interno del film. Sì, mi pare sia uno degli ospiti di una delle varie feste, di uno dei vari party in piscina. È un film ormai diventato di culto, ma all'epoca, era il 1968, non riscosse molto successo di pubblico, anche se Lancaster lo considerò il suo film migliore. Molti di voi, i nostri coetanei almeno, si ricorderanno anche di una pubblicità che uscì alla fine degli anni Ottanta della Levi's, in cui un giovane uomo passa da una piscina all'altra, come fa il protagonista del nostro racconto, attraversandole a nuoto tra gli occhi stupiti e ammirati delle donne. Indossando ovviamente dei jeans. Sì, a pensarci bene, forse la pubblicità si ispira più al film che al racconto. Ma ascoltiamoci adesso il pezzo che lo accompagna e poi torniamo sempre qui a 42 La Risposta in compagnia del nuotatore di Cheever. I'm mad about the boy, and I know it's stupid to be mad about the boy. I'm so ashamed of it, but must admit the sleepless nights I've had about the boy. On the silver screen, he melts my foolish heart in every single scene. Although I'm quite aware that here and there are traces of the cad about the boy. Lord knows I'm not a fool girl. I really shouldn't care. Lord knows I'm not a schoolgirl who's in the flurry of her first affair. Will it ever cloy, this odd diversity of misery and joy? I'm feeling quite insane and young again, and all because I'm mad about the boy. Bentornate e bentornati in studio, siete a 42 La Risposta in compagnia di Maria Oliviero e del bellissimo racconto Il Nuotatore di John Cheever che abbiamo letto nella traduzione italiana di Marco Papi per Feltrinelli. Il racconto comincia nel giardino di una classica villa americana durante un party domenicale in cui tutti gli invitati si lamentano del gran mal di testa dovuto all'eccesso di alcol della sera prima. Leggiamo l'incipit del racconto. Era una di quelle domeniche di mezza estate in cui tutti se ne stanno seduti e continuano a ripetere: ho bevuto troppo ieri sera. È una situazione che molti di noi conoscono esatto. Bene. Cheever ci presenta Ned, il protagonista del racconto, disteso vicino all'acqua della piscina con una mano immersa nell'acqua e l'altra stretta intorno a un bicchiere di gin. È un uomo di mezza età, non più giovane, ma con un corpo ancora atletico. Poteva essere paragonato, scrive Cheever, a una giornata d'estate quando volge al termine, comunicando un'immagine di gioventù sportiva e tempo clemente. Ricorda, non credi, Oliviero, un po' lo svedese di pastorale americana, no? Un esempio di uomo di successo, realizzato, dotato di presenza fisica, salute, ricco, pieno di amici, una vita familiare invidiabile. E in questa situazione quasi di sospensione del tempo, Ned immagina di fare ritorno a casa a nuoto, attraversando la lunga fila di piscine che percorreva come un unico corso d'acqua la contea, fino alla sua casa a Bullet Park. Un'impresa bizzarra, evidentemente, che Ned però prende molto sul serio, immaginandosi nei panni di un esploratore, un pellegrino, un uomo del destino che avrebbe percorso un tragitto non ancora segnato sulle mappe, ma ben impresso nella sua memoria. Un tragitto cosparso di volti amici, assiepati lungo il corso d'acqua che Ned ribattezzerà Lucinda in onore di sua moglie. Quindi il viaggio inizia e sembra effettivamente realizzarsi quello che Ned aveva immaginato. Scavalca le siepi basse che dividevano le proprietà ed entra in costume da bagno nelle ville dei suoi vicini di casa, tutti benestanti, appartenenti alla sua stessa classe sociale e tutti abituati a trascorrere le domeniche nello stesso identico modo. Li vediamo infatti salutare Ned a gran voce, sorpresi piacevolmente dalla sua visita, pronti a offrirgli un gin o un martini, a scambiarsi frasi di circostanza, sempre uguali. Come va Ned? Come sta Lucinda? Le bambine? Meravigliosamente, stiamo tutti meravigliosamente. C'è un passaggio del racconto che descrive magistralmente la sensazione provata da Ned nel compiere il suo viaggio a nuoto verso casa, in quella giornata così luminosa e piacevole. Com'erano incantevoli e lussureggianti le rive del fiume Lucinda. Uomini e donne prosperi erano riuniti intorno alle sue acque color zaffiro, mentre i camerieri in giacca bianca servivano loro bicchieri di gin gelato. Sopra la testa vedeva volteggiare nel cielo un aereo rosso d'addestramento, che sembrava gioioso, come un bambino sull'altalena. Ned provò un momentaneo sentimento d'affetto per quella scena, un senso di tenerezza per quella gente lì riunita, un sentimento che gli sembrava di poter toccare con mano. E così Ned passa da una villa all'altra, tuffandosi, nuotando di piscina in piscina, attraverso appunto tutte quelle dei vicini di casa, finché non arriva a casa dei Levi. Già, la casa è deserta, in giardino ci sono i resti di una festa terminata da poco, bicchieri, bottiglie, avanzi di cibo. Ned comunque si tuffa ugualmente in piscina, percorre la vasca, poi si ferma a bere un bicchiere, il quarto, il quinto, avrà perso il conto, ripensando alla sua impresa. Si trova più o meno a metà. Si sentiva bene, era contento di essere solo, scrive Cheever, ma qualcosa sembra cambiare. Un temporale in arrivo, le nuvole si addensano in quel cielo che non sembra più estivo, comincia a piovere, l'aria si raffredda. Alcuni alberi hanno già perso le foglie, un velo di malinconia comincia ad affacciarsi sul volto di Ned. È una malinconia che cresce sempre di più, mista allo stupore via via che il viaggio continua. Prima la pista di equitazione dei Lindley infestata da erbacce senza ostacoli, poi la piscina dei Welcher, vuota, prosciugata, senza acqua. Leggiamo dal testo: questa interruzione nel flusso del suo corso d'acqua gli diede un assurdo senso di delusione e si sentì come un esploratore che si spinge alla ricerca delle sorgenti di un fiume e si trova invece davanti a un ramo morto. Era deluso e sconcertato. Era un fatto abbastanza normale che la gente se ne andasse via in estate, ma nessuno aveva mai prosciugato la piscina. Ned è deluso, ma ostinato. Deve portare a termine il suo viaggio e per farlo deve attraversare a piedi la statale 424. È qui che la figura, il personaggio di Ned, cambia e si trasforma definitivamente. Da simbolo del vigore e dell'entusiasmo diventa una figura patetica, derisa, sbeffeggiata, bersagliata, perfino, scrive Cheever, da lattine di birra scagliate dalle auto in corsa. E soprattutto non può più tornare indietro. E questo è un passaggio molto importante del racconto. Si compie una sorta di attraversamento della linea d'ombra, no? Perché era così deciso a portare a termine il suo viaggio, anche se ciò poteva mettere a repentaglio la sua stessa vita? Quando era successo che quel gioco, quello scherzo, quell'esibizione erano diventati una cosa seria? Non poteva tornare indietro, non riusciva nemmeno a ricordare chiaramente l'acqua verde della piscina dei Westerhazy, la sensazione che aveva provato di respirare le componenti di quella giornata, le voci rilassate degli amici che dicevano di aver bevuto troppo. Nello spazio di un'ora, più o meno, aveva percorso una distanza che rendeva impossibile il suo ritorno. Da questo momento in poi fino al finale, che però non vi sveleremo, il viaggio di Ned diventa sempre più un viaggio interiore, un viaggio ritroso nella sua memoria, che sembra vacillare insieme al suo corpo, che si fa sempre più stanco, sempre più debole. Anche il comportamento degli altri, dei vicini, delle persone che Ned incontra, sembra profondamente cambiato. Ned non è più il benvenuto, l'ospite gradito che tutti vorrebbero alla propria festa. C'è chi lo compatisce, come i coniugi Halloran, chi lo tratta con disprezzo, come la signora Bisbanger. Intanto veniamo a conoscere, nelle frasi dette a mezza voce, elementi della vita di Ned che non conoscevamo, che lo stesso Ned reputa calunnia, menzogna. Anche l'atteggiamento di Shirley, la sua vecchia amante, lo sorprende. Non lo accoglie, non ha voglia di parlare con lui. Adesso è in compagnia di un altro uomo. Leggiamo dal testo di Cheever. Era forse la prima volta che piangeva nella sua vita di adulto e sicuramente era la prima volta che si sentiva così infelice, infreddolito, stanco, sgomento. Non riusciva a comprendere la maleducazione del barista nei modi sgarbati di un amante che era andata da lui in ginocchio, bagnandogli i pantaloni delle sue lacrime. Ecco di che cosa aveva bisogno, di qualcosa da bere, di compagnia e di vestiti puliti e asciutti. Ma anche se sarebbe potuto arrivare direttamente a casa sua, tagliando la strada, si diresse invece verso la piscina dei Gilmartin. E qui, per la prima volta in vita sua, non si tuffò in acqua, ma scese la scaletta nell'acqua gelida e con le lente bracciate laterali che aveva imparato da principiante, nuotò attraverso la piscina. Poi si trascinò, barcollando, fino alla casa dei Clyde e percorse anche la loro piscina, fermandosi continuamente a riposare con la mano sul bordo. Quando salì la scaletta, si domandò se ce l'avrebbe fatta a ritornare a casa. Aveva fatto quello che si era proposto, aveva attraversato a nuoto la contea, ma ora era così inebetito dallo sforzo che il suo trionfo gli appariva senza senso. Curvo, aggrappandosi ai paletti del cancello per sostenersi, imboccò finalmente il vialetto che conduceva a casa sua. Fermiamoci qui, Oliviero, fermiamoci al cancello della casa di Ned e lanciamo un altro brano dal titolo The Swimming Pool di Anna Calvi. Oh, Bentornati in studio sulle note di Swimming Pool di Anna Calvi in questa puntata dedicata al racconto di John Cheever, il nuotatore. Sì, Oliviero, prima del break musicale abbiamo un po' descritto il viaggio che Ned Merrill, il protagonista, compie per tornare a casa. È uno strano viaggio quello di Ned, un viaggio a nuoto di piscina in piscina che lo porta ad attraversare le ville dei suoi vicini di casa, da prima ospitali e poi progressivamente sempre più diffidenti, ostili nei suoi confronti. È difficile, Oliviero, descrivere quali cambiamenti avvengano precisamente durante il suo viaggio. Innanzitutto perché perdiamo quasi immediatamente le coordinate temporali. Solo pochi chilometri separavano il punto di partenza, la piscina di casa Westerhasi, da Bullet Park, ma lungo il percorso sembrano trascorrere le stagioni, gli anni, no? Sembrano cambiare gli stessi personaggi, e Ned in particolare, in quello che è piuttosto un viaggio metaforico, no? Carico di significati e di riferimenti letterari. Certo, il viaggio verso casa e il racconto del ritorno non può non farci pensare al viaggio di Ulisse verso Itaca, che poi avviene attraverso lo stesso elemento, l'acqua, che ha di per sé un forte valore simbolico. E senza alcun dubbio questo racconto può dirsi epico, no? Come quello di Ulisse. Tuttavia, Ned non è un novello odisseo e intraprende il suo viaggio come esploratore, come pellegrino, quasi per gioco, un po' per dimostrare a se stesso di essere in grado di compiere questa impresa e anche un po' per rassicurarsi del fatto che quell'umanità che compone la sua esistenza, la sua quotidianità, è un'umanità da cui vuole essere guardato, accolto e amato. Anche l'acqua è diversa, no? Il mare periglioso di Ulisse Cheever oppone qui l'acqua quieta, domesticata di una piscina. Un'acqua che però rischia sempre di imputridirsi, come le relazioni sociali che si svolgono intorno ad essa. Sì, infatti forse tra tutte le metafore possibili del nuotatore c'è proprio quella della decadenza della borghesia americana, della fragilità delle relazioni sociali, di frasi fatte, di stanche ritualità, di apparenze, di finta cortesia. Una critica che diede a Cheever, ricordiamolo, grande fama nell'Unione Sovietica dei tempi della Guerra Fredda. Scrive Fernanda Pivano nell'introduzione all'edizione del Nuotatore edito da Fandango. In realtà nei suoi personaggi la serenità era soffocata, la tranquillità repressa, la felicità artificiale. E questo rendeva più commoventi le vicende conformiste dei suoi benestanti delusi, frustrati, dolenti. In realtà, della borghesia descriveva i problemi oltre che i costumi e i racconti tristi, intrisi di pessimismo e carichi di una disperazione tanto più drammatica quanto più immersa sotto la superficie levigata delle false apparenze. Già. Ma questa patina di falsità si trasformerà ad un tratto, come abbiamo già detto, in aperta ostilità, in feroce disprezzo, non appena Ned cade, no, dal suo piedistallo, perde il suo status di privilegiato, si trasforma in un imbucato, in un clandestino. E la decadenza di Ned è anche certamente metafora della decadenza fisica. Il personaggio sembra invecchiare proprio pagina dopo pagina. All'inizio appare nel pieno delle sue forze, poi, dopo aver attraversato la linea d'ombra, appare sempre più debole, stanco, infreddolito, confuso. Metafora biologica, metafora sociale, ma anche parabola forse di un rapporto amoroso, no? Non trovi, Olivier? Sì, forse più precisamente del matrimonio, come sembra suggerire il nome di questo immaginario fiume di piscina che portano a casa, Lucinda, proprio il nome di sua moglie. Una parabola che va dalla fase dell'innamoramento, rappresentato dallo stordimento iniziale di una domenica calda di mezz'estate, dopo un sabato di eccessi, fino all'autunno precoce, freddo, vuoto, come la piscina dei Welcher. La piscina prosciugata poi è simbolicamente importante poiché rappresenta un'interruzione del suo viaggio, no? Del viaggio di Ned. Un'interruzione del fiume Lucinda che forse vuole proprio rappresentare l'impossibilità di recuperare un rapporto ormai arido. È anche un racconto sulla rimozione di ogni accadimento doloroso, di piscina in piscina, di drink in drink, di rimozione in rimozione si potrebbe dire. È una rimozione riempita di alcol, di party, di relazioni solo all'apparenza felici, appagate, profonde, nitide, con solide radici. Pare invece che questi rapporti che lui attraversa siano riempitivi, amicizie, storie leggere, talvolta egoiste e inconsapevoli. Sì, Oliviero, lo si vede bene alla fine del racconto, che appunto non vi sveliamo. Quando lui pare invece dover fare i conti, finalmente, dopo 15 km, forse 20 anni, non lo so, possiamo solo immaginarlo, con le macerie della sua vita, tutto ciò che non ha voluto affrontare prima. Beh, potremmo continuare ancora a lungo questo gioco ermeneutico, ma il nostro tempo è finito. Però prima di lasciarvi vogliamo fornirvi altri due indizi per intuire il finale di questo racconto. Il primo è il consiglio di leggere una poesia di Raymond Carver, che, come abbiamo già detto, era un grande amico nonché compagno di bevute di Cheever, dal titolo Chiudersi fuori e poi cercare di rientrare. La seconda è ascoltare il prossimo brano dei Massimo Volume, che stasera presentano a Bologna in anteprima il loro ultimo album. Che esce, lo volevo dire, per l'etichetta 42 Records, 42. E che si intitola proprio Il Nuotatore. Buon ascolto. Ciao a tutte e tutti, alla prossima. Il tempo è buono, il gin è in fresco. C'è chi sguazza in piscina, chi conversa del più e del meno. Le mogli in vestito da sera, i mariti con le giacche di lino. Ci divertiamo a un cocktail party organizzato da una coppia di vicini. Viviamo qui da quando è nato Sergio. Laura aveva voglia di spazio, di un posto dove farlo crescere meglio. Ora abbiamo anche noi una villa in giardino. È una piscina circondata di siepi, simile in tutto a quella dei vicini. Così nel mezzo del rinfresco mi spoglio allegro ed entro in acqua, deciso a tornare a casa una vasca dopo l'altra. Chiedendo il permesso ai vicini, mi lasceranno di sicuro entrare. Li conosco uno a uno e li considero tutti dei buoni amici. Ma all'improvviso il tempo cambia, comincio a sentire freddo. Come se l'estate se ne fosse andata di colpo, come se tutto quello che avevamo fosse andato perso. Le piscine che attraverso sono vuote, sul pavimento si è accumulato uno strato di foglie. E la gente che fino a ieri mi invitava a entrare, ora mi nega il saluto come se le avessi fatto qualcosa di male. E quando arrivo finalmente a casa, la trovo abbandonata, i vetri rotti, la porta sfondata. Coraggio di scostare per vedere cosa c'è dietro, nemmeno io lo volevo. Ma poi si è alzato il vento e quello che non osavo scoprire, ho capito che era peggio di quello che temevo. All'improvviso il tempo cambia, comincio a sentire freddo, come se l'estate se ne fosse andata di colpo, come se tutto quello che avevamo fosse andato perso. Le piscine che attraverso sono vuote, sul pavimento si è accumulato uno strato di foglie. E la gente che fino a ieri mi invitava a entrare, ora mi nega il saluto come se avessi un conto da pagare. E quando arrivo finalmente a casa, la trovo abbandonata, i vetri rotti.